Non c'è ragione per litigare, non c'è ragione per non doversi amare, spettinarsi all'ultimo respiro. Non c'è motivo che mi conforta, non c'è rimedio se la mia luna è storta. Ad omare in erbi son negato. Non c'è un amico che mi sopporta, non c'è più un grillo nella coscienza. Ho bisogno di un bel bagno, di pensare un po', camminando solo verso il mare. Ho creduto di affogare, di restare buono e muto, le regole del gioco, le penisole del nostro amore, in contrasto con il cuore, il mio orgoglio col tuo aiuto, la sabbia con lo scoglio. A un certo punto la mente torna, la tua dolcezza mi fa rialzar le corna, quel mantello rosso ora è svanito. Eppure il sangue che mi ribolle diventa cera ed il mio sguardo folle si trasforma in timido sorriso. Facciamo pace per questa volta, io torno dentro e tu sei assolta. Io confesso